24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti in questo istante, cari ascoltatori, eccoci qua. 349-238-6666 per i vostri messaggi. 24 mattino e radio24.it la mail. Oggi nel nostro sondaggio parleremo di questo spot pro eutanasia che è sbarcato in Italia. Alcune TV vogliono trasmettere uno spot di 40 secondi che dice sì all'eutanasia. Che ne pensate? Secondo voi va trasmesso in TV? Andrebbe trasmesso in TV uno spot del genere? Questa è la domanda che vi poniamo. Radio24.it, ne parleremo alle 8:30 con i diretti interessati, con gli ospiti, ed ora, come di consueto, iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. In questo giovedì 11 novembre l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alle borse. Borse in allarme sull'Europa e la crisi irlandese che si abbatte su bond e listini. E tra l'altro è il giorno in cui inizia il G20 a Seul per quel che riguarda la finanza mondiale. Poi la politica è in tutte le salse sugli altri quotidiani. L'offerta di Bossi a Fini per il Corriere. Letta, il governo non durerà, così apre Repubblica. Per la Stampa, l'ultimo rilancio di Bossi. Ma sono scettici anche, guardate il giornale Libero, il giornale governo si sfascia tutto, mentre Libero si è rotto Letta. Per l'unità sfiducia, e c'è la foto di Bossi, Berlusconi e Fini, ultimi giorni di Pompei. La politica segna il giorno in cui il pessimismo prevale sui giornali, lo vedremo tra poco. Io vorrei iniziare da qualche segnalazione, la prima è dal Sole 24 Ore a pagina 11, anche se lo troviamo anche sul Corriere della Sera a pagina 28, una notizia secondo me importante che in realtà sta passando un po' in secondo piano. Arena Ways lancia la sfida. Di cosa si tratta? Lunedì prossimo inizierà il primo treno di un operatore privato sulla Torino-Milano, primo treno, dunque parliamo di ferrovie. Augusto Grandi parla di questo Arena Ways, voluto l'amministratore delegato Giuseppe Arena, uno che ha fatto il capo stazione, ha lavorato a Trenitalia per 30 anni e ora si è messo in proprio una cordata di imprenditori. Fa sapere il Corriere della Sera 50 milioni di euro di investimenti, nessun contributo pubblico, una significativa assenza di tutte le forze politiche. Inizierà da lunedì sulla tratta Torino-Milano. C'è da dire che Augusto Grandi dice l'unico obiettivo di chi si occupa di trasporti in Italia, soprattutto in Piemonte, è impedire ogni forma di concorrenza, ogni apertura del mercato. Questa è la denuncia di Giuseppe Arena, appunto l'amministratore delegato della piemontese Arena Ways, che ieri ha fatto il viaggio inaugurale. Per la verità, racconta al Sole 24 Ore, osteggiato da dispetti puerili come quello di negare ad Arena Ways il binario 1 della stazione torinese del Lingotto, invece nascondendolo sul binario 7 in modo che i passeggeri in transito non lo vedessero, o come quello di cercare di non far salire a bordo i giornalisti. Scortesie che si sommano al documento inviato solo l'altra sera all'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, con cui si limita il servizio alle sole fermate di Torino e Milano, che per un treno per pendolari ovviamente non è il massimo. Escluse dunque all'ultimo momento da Trenitalia le fermate di Chivasso, Santhià, Vercelli, Novara. Anche per il Corriere della Sera però è così: parte il primo treno dei privati, è l'idea di un ex capostazione, da Milano a Torino per i pendolari. La denuncia è Ferrovie ci ostacola, e questa storia comunque è una vicenda positiva che vi segnalo. Sempre legata alle ferrovie, ma un'altra notizia che vi segnalo è quella che c'è in prima pagina di Repubblica a firma Marco Bettazzi. Le ferrovie tagliano l'intervallo sigaretta. Per i bigliettai è un modo per staccare dal ritmo infernale dello sportello, per prendere una boccata d'ossigeno, per fumare, mentre per Trenitalia è un inutile spreco di tempo che nell'era della produttività, di Marchionne e di internet deve essere sacrificato. Al centro della polemica, la cosiddetta pausa sigaretta, così viene chiamata dai ferrovieri, che porta delle proteste. A Bologna tutti i bigliettai godevano per esempio di tre intervalli di 20 minuti al giorno, finché Trenitalia ha deciso di cancellare il benefit, riducendolo al minimo, non più 60 minuti ma 15 minuti, dunque tre pause da 5 minuti. Sindacati sul piede di guerra, a Milano le astensioni del lavoro ci sono già state, le ferrovie tagliano, proteste in mezza Italia per quel che riguarda Repubblica dice, per quel che riguarda la pausa sigaretta tagliata, questo lo trovate in prima pagina e poi a pagina 26 di Repubblica. Ho tempo anche per un'altra segnalazione, invece questa dal Corriere della Sera, pagina 26, Luigi Offeddu. Fondi europei per Elton John a Napoli, indagine sul maxi compenso. Elton John era venuto l'anno scorso, l'11 settembre 2009, per un concerto a Piedigrotta, una promessa adempiuta di un cachet di 750.000 euro. Accidenti, 750.000 euro. Un cachet che per la verità era stato rifiutato anche da Paul McCartney, al quale erano stati offerti 800.000 euro promessi sull'unghia per cantare quattro canzoni. Ovviamente c'erano troppi dubbi per l'ex Beatle su quel compenso milionario, ha detto probabilmente non me li daranno e allora non si è presentato. Invece Elton John si è presentato, 750.000 euro li ha ottenuti, ma ora c'è qualcuno che vuole vederci chiaro, è l'europarlamentare Mario Borghezio della Lega, che ha chiesto di verificare il vergognoso utilizzo di questo cachet, perché secondo lui si tratta in realtà di fondi che l'Unione Europea destinava allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e che sono stati utilizzati appunto per pagare il cachet Elton John in questo concerto. L'Unione Europea ha fatto sapere che vorrà vederci chiaro, faremo tutte le indagini del caso perché certamente non si dirottano nel caso fondi europei allo sviluppo economico per pagare un concerto. Staremo a vedere come finisce questa vicenda. Fondi europei per Elton John a Napoli, indagine su maxi compenso, questo denuncia il Corriere della Sera. Bruxelles certo dice l'iniziativa, quella di un concerto, è sicuramente effimera, bisognerebbe capire che impatto avrà sull'attività turistica della regione. Effettivamente il concerto è finito, 750.000 euro sono andati, non credo che Elton John a Piedigrotta abbia portato grande lustro alla regione Campania. Ci fermiamo, pubblicità e meteo, poi ripartiamo dalla politica. In primo piano la politica. Si interroga sul giorno della trattativa, l'incontro Bossi-Fini, al quale sarebbe affidato un po' i destini di ricomporre la maggioranza di governo, anche se regna dai giornali il più cupo pessimismo. L'emblema sono le parole di Gianni Letta, l'uomo politico delle mediazioni, l'uomo dalle rarissime parole sempre equilibrate quando parla. Ebbene, viene dato ampio risalto invece alla, sì è vero, forse era una battuta, ma insomma quello che Letta ha detto ieri, per esempio il Corriere a pagina 2, Letta, questo esecutivo ha prospettive brevi. Questo governo che rappresento pro tempore, ha detto Letta con una vena di ironia, ha prospettive molto più brevi del 2020. In queste ultime ore sembrano restringersi non ad anni ma a periodi e misure di tempo contenuti. È il giorno, come detto, dell'incontro. Oggi si decide, incontro tra Bossi e Fini, così titola la Padania, ma in realtà se andiamo a leggere in retroscena sembra che il destino sia abbastanza segnato, questo almeno sulle prime pagine dei giornali. Per esempio sentite cosa ha raccontato, cosa racconta Claudio Tito in prima pagina di Repubblica. Ma è vero quello che mi dicono i leghisti? Saresti disponibile a un Berlusconi bis? Appoggeresti davvero un nuovo governo di Silvio? Questo ieri Gianni Letta ha detto a Gianfranco Fini. Secondo Repubblica si sono incontrati, Gianni Letta è entrato nella Camera da un ingresso secondario, si è diretto allo studio del Presidente e ha tentato su mandato di Berlusconi l'ultima disperata mediazione. Se si tratta di fare una crisi pilotata, solo un passaggio rapido al Quirinale, allora se ne può parlare. Queste le condizioni dettate da Berlusconi a Gianni Letta. La risposta però ricevuta da Gianfranco Fini è Gelida, ma di che stai parlando? Questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io non posso fare tutto questo per due ministeri in più. L'unico passo accettabile è quello del passo indietro del Cavaliere, un'opzione che però Gianni Letta ha detto è inaccettabile per il Presidente del Consiglio. Allora, stando a questi rumors, stando a questa retroscena di Repubblica, ci sarebbe stato questo incontro tra Letta e Fini. Come dire, Letta che dice a Fini: facciamo un nuovo governo, un nuovo rimpasto, ancora con Berlusconi però, e Fini invece ha detto no, deve fare un passo indietro. Sta di fatto che Berlusconi, che è partito per Seul per il G20, il Cavaliere è dato per pessimista sul Corriere della Sera. Sentite addirittura Paola Di Caro cosa dice: io non ho dato a Bossi alcun mandato a chiudere la trattativa a nome mio, perché non sono disponibile a una crisi al buio. La Lega vada pure a parlare con Fini, ma dubito che ne esca qualcosa di utile. E dunque, le prospettive sono davvero tutt'altro che incoraggianti. Per Stefano Folli, nel suo solito commento, il punto sul Sole 24 Ore, a pagina 9, due ipotesi: dimissioni per il bis o sfida aperta in Parlamento. Analizza Stefano Folli quelle che sono le due dichiarazioni politiche del giorno di ieri, non solo quella di Letta che vi ho già citato, ma anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ha detto testuale questo: siamo in un momento di grandissima incertezza, c'è molta tensione, ci sono molte contrapposizioni. Chiunque sarà chiamato a governare ancora o a governare nuovamente dovrà affrontare le problematiche concrete del paese. Il che dà lo spunto al giornale di titolare Napolitano parla già di nuovo governo. Beh, anche Stefano Folli dice sono parole criptiche, ma nemmeno tante. Tra le righe il capo dello Stato dice proprio: chi sarà chiamato a governare ancora? Il riferimento sembra a Silvio Berlusconi, si potrebbe interpretare così se il Presidente del Consiglio accelerasse il chiarimento e presentasse le dimissioni. Il passo più logico d'altronde sarebbe offrirgli un nuovo incarico. Però parole del Presidente piuttosto esplicite, dice Folli, ma neanche le uniche della giornata, ci sono appunto quelle di Letta. E perché proprio ieri? Perché queste frasi proprio ieri? Perché, racconta Folli, c'è un'attesa eccessiva intorno all'incontro tra Fini e Bossi previsto oggi. Si è accreditata l'idea di una mediazione leghista che in realtà Berlusconi non gradisce affatto, a meno che non si tratti di colloqui volti a spianare la strada al pacchetto del federalismo che attende di essere approvato prima di Natale. Però la sensazione, anche dice Folli, che non riguarda più l'eventualità di una crisi ormai certa, bensì chi la gestisce e come. Cioè, che ci sia una certezza della crisi è abbastanza evidente. Io ripeto i titoli del giornale e di Libero. Oggi in prima pagina il giornale: governo, si sfascia tutto, la crisi accelera, mentre Libero: si è rotto Letta, Silvio parte per la Corea, Gianni lo sostituisce e dichiara morto il governo. Tanto che il Foglio in prima pagina si chiede: ma è un mistero fitto, perché il Cavaliere continua a rinviare la crisi? Il più esposto all'azione del tempo sembra proprio il Presidente del Consiglio, da qui la metafora del paracarro, il suo rimanere in moto ai margini. E è una posizione che si fa sempre più singolare. Berlusconi ha fatto sapere che non si dimetterà, dunque nessun cedimento alle richieste di Fini, non accetta un armistizio duraturo, neanche accelera troppo verso la scommessa del voto popolare. Il Premier comunica al proprio entourage la consapevolezza di essere oggetto di una manovra tenaglia, la cui regia è affidata a Fini e Casini. Un quadro che, stando al manuale di base della politica, prescrive l'urgenza di un'azione evasiva, di una mossa che liberi il Presidente del Consiglio. Eppure il Premier accetta la mediazione di Bossi, invia Letta dal Presidente della Camera, viene informato dei contatti tra Maroni e il Quirinale. L'attendismo di Berlusconi ha dei tratti misteriosi. Perché il Presidente del Consiglio in difficoltà non dà segnali? Questo si chiede il Foglio. È una tattica lungimirante quella di assecondare la flemma di Bossi, l'unico che ha da guadagnare e che, incontrando Fini, potrebbe lanciare al Presidente della Camera messaggi ambigui intorno a uno scambio tra federalismo e governo tecnico? No, ma il Foglio si dice: perché Berlusconi è così attendista? È un mistero fitto. Che invece Fini abbia tanti motivi di scontento lo si può leggere anche dalla lettera che il Presidente della Camera, per la verità senza firmarsi come Presidente della Camera e neanche come capo del partito FLI, ma solo come Gianfranco Fini, la lettera inviata al Sole 24 Ore, oggi pubblicata a pagina 8. Si parla di ricetta economica di Future Libertà dopo l'articolo di Guido Gentili. E dice Fini tante cose: ho sempre ritenuto che senza una politica di rigore finanziario non si vada da nessuna parte, alimentando spesa pubblica, deficit e debito, si distruggono le basi di ogni seria e sana prospettiva di crescita e di occupazione, ecco perché ho sempre condiviso gli obiettivi del rigore finanziario, ma mi sono sempre soffermato sul come quegli obiettivi vadano perseguiti. Possiamo dire che i conti pubblici oggi sono a posto? Si chiede Fini, forse sul piano dei saldi finanziari. Tanto che il ministro Tremonti ha definito la finanziaria tabellare, ma sul fronte delle prospettive economiche per famiglie e imprese possiamo dire che è tutto a posto? Certamente no. In febbraio scadono 400.000 cassintegrati, da qui a marzo 100.000 piccole e medie imprese rischiano di chiudere. Quale politica economica per lo sviluppo e l'occupazione dobbiamo proporre? Proprio su questo fronte l'area finiana dei parlamentari, in particolare Mario Baldassarri, ha proposto un taglio verticale di alcune voci di spesa pubblica al fine di introdurre il coefficiente familiare col metodo delle deduzioni per ogni componente, di tagliare l'IRAP, di aumentare gli investimenti infrastrutturali, le risorse per la ricerca, l'università, le risorse per polizia e forze di sicurezza. Ebbene, scrive Fini, il governo chiese di trasformare quelle proposte emendative aggiuntive in un ordine del giorno che il governo stesso fece proprio. Peccato però che fino a oggi di tutto ciò non si sia vista neanche l'ombra, salvo il goffo tentativo di dire che la cedolare secca sugli affitti sarà realizzata nell'ambito del federalismo fiscale. Dunque un Fini che attacca anche il governo sulla ricetta economica che Future Libertà dice ha proposto, eccola qui sul tavolo, e non se n'è fatto nulla. Il governo ha detto la facciamo nostra e invece immobilismo totale. Capite che il clima è questo qui, di grande tensione. Vedremo l'incontro Bossi-Fini. Sullo sfondo ci sono sempre i guai e le polemiche legate alla vicenda Ruby, che sono tornate alla ribalta. Per esempio, ieri ha parlato, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni, si è presentata al magistrato Anna Maria Fiorillo, quella della Procura dei Minori, che ha gestito la questione dell'affidamento a Ruby, la ex minorenne marocchina fermata dalla questura di Milano con la famosa telefonata da Palazzo Chigi. Con la questura ebbi un alterco, così la versione di Anna Maria Fiorillo, che ieri ha fatto una dichiarazione, ma Davide Carlucci e Piero Colapricco la intervistano per Repubblica. Ho investito del caso il Consiglio Superiore della Magistratura, io non ho rapporti negativi col sistema, coi colleghi, non sto a badare la politica, il governo che cade o resta, ma non mi ha ricostruita non mi ha convinta la ricostruzione di Maroni, il passaggio in cui il ministro sostiene che io avrei dato il consenso all'affidamento alla Minetti. Mi ha fatto sobbalzare, è stata una notte agitata. Ma è vero che le hanno detto che Ruby è la nipote di Mubarak? Sì, ma io ho detto sì. E io sono Nefertiti, la regina del Nilo. Poi le loro insistenze, se è proprio così, allora ho chiesto fatemi mandare una conferma scritta dall'ambasciata egiziana. Secondo lei gli agenti che si occupavano del caso erano sotto pressione? Assolutamente sì. Io ho commesso un errore, dice il magistrato, non ho rassicurato la funzionaria che se ne occupava, la dottoressa Iafrate, che era tutta irrigidita, parlava come se recitasse seguendo un copione, e pensavo come si permette di essere così testarda, si assumerà tutte le responsabilità. Non ho capito invece che era sotto pressione e si capisce che hanno mandato avanti lei. Poi dice, io ancora non ho affidato a nessuno Ruby, mi hanno detto che c'era questa Nicole Minetti, definita consigliera presidenziale. Io ho studiato diritto costituzionale, ho fatto presente questa carica, non l'ho mai sentita, pensavo l'avessero creata da poco. E poi dice, beh, però il procuratore capo di Milano, Brutti Liberati, dice che è tutto a posto, ancora ieri. Beh, ma lui si è basato sulla relazione del mio capo, che è stata di grande trasparenza. A quella relazione è allegata la mia. Io l'ho scritta in un italiano moderato, ho detto di aver avuto in quella notte un tono assertivo, ma in realtà con la questura ho avuto un vero e proprio alterco, che verrebbe a dire perché non l'ha scritto. Berlusconi gli è stato mai nominato? No, non se la saranno sentita. Così il magistrato Anna Maria Fiorillo dice: quella notte non ho affidato Ruby a nessuno, è stata sentita un po' dai vari giornali, ma solo il Messaggero invece fa un gran colpo, a mio modo di vedere, da cui ripartiremo dopo il traffico, perché il Messaggero riesce a rintracciare e a intervistare il funzionario della polizia, questa dottoressa Iafrate, che invece dà la versione opposta dopo il traffico. In primo piano. Ma che pressioni affidai Karima d'accordo col magistrato. parla e lo fa solo al Messaggero che l'ha scovata, il commissario Iafrate, quel che ha tenuto i contatti col pubblico ministero Fiorillo, che dice non è vero quello che ha detto Maroni, non ho affidato nessuno. E la versione è diametralmente opposta. Al Messaggero Aldo Simoni, il commissario Giorgio Iafrate, ricorda male il magistrato, era d'accordo. Evidentemente ricorda male. Io ricordo benissimo, non cambio una virgola di quanto detto. In accordo col PM dei minori, ovviamente, ci siamo sentiti per telefono, come quella notte avviene tante altre volte. È arrivata poi la consigliera regionale Nicole Minetti, una persona che offriva valide garanzie, e alle pressioni non ho ricevuto alcuna pressione, nessuno mi ha detto di rilasciarla. L'unica sollecitazione fu quella di fare presto, ma sempre nel rispetto della prassi. E alla fine, dopo aver fatto telefonate nei luoghi dove potevano accoglierla, ma nessuno dopo le 17 risponde, alla fine, dice, commissario e pubblico ministero si accordarono per l'affidamento di Ruby alla Minetti. Io ve l'avevo detto qualche tempo fa, cari ascoltatori, pensate che su queste cose si riuscirà mai a avere una versione nella quale si saprà i fatti sono andati così? Ma no, ognuno darà la sua versione, sarà sempre così, sarà così anche nei prossimi giorni, sta di fatto. Credete a quello che volete, io ve le riporto, i giornali le riportano, e poi credete ciò che volete. Il Fatto Quotidiano torna su queste vicende, non solo di Ruby, ma per il secondo giorno si concentra sulle dichiarazioni di Perla Genovesi, ex assistente del senatore Pianetta, arrestata in un traffico presunto di narcotrafficanti. Oggi il titolo del Fatto Quotidiano è Da Arcore ai Narcos. Ieri si è analizzato il fatto che Perla Genovesi ha fatto centinaia di telefonate con schede intestate, secondo il Fatto Quotidiano, ai ministri Bondi, Brunetta, chiamava 48 volte, ha chiamato Arcore. Oggi Marco Lillo dice, ci dà una versione di Perla Genovesi, o meglio dell'interrogatorio di Perla Genovesi, che è definita la pentita di questa grande inchiesta, nella quale Perla Genovesi dice anche: sono stata una consulente, sono stata, nome in codice Corallo, una consulente, o meglio una informatrice, in questo giro di narcotrafficanti per la polizia. Il mio nome in codice era Corallo, per la narcotici sono i carabinieri e per la Digos della polizia. E perché ha fatto questo? Perché ritenevo responsabili gli spacciatori della rovina della mia famiglia. Mio zio era morto dopo che l'avevano picchiato in carcere, perché era stato in carcere per colpa della droga, per colpa del fratello che faceva spaccio. Questi sono, leggo il verbale dell'interrogatorio. E poi dice, quando facevo l'assistente parlamentare mi dissero attenta perché hai il cellulare sotto controllo. Chi glielo disse? L'assistente di Formigoni, sì, mi disse stai attenta. E chi è? Uno degli assistenti. E come si chiama? Alessandro. E Alessandro come? Ma il cognome adesso non me lo ricordo, comunque ho qui il telefono e il cellulare. Mi disse uno dei servizi segreti, mi disse stai attento, tramite questo Alessandro hai il telefono sotto controllo. Questo Arcore, il telefono di Perla e la soffiata dei servizi. La politica e tutto quello che ci gira intorno è questo. Trovate ancora sui giornali, intanto, come ho detto, l'apertura del G20 a Seul e anche la questione delle borse in grave difficoltà. Oggi l'apertura del Sole 24 Ore, le borse in allarme sull'Europa perché c'è il rischio Dublino, la situazione di rischio crisi in Irlanda, ma anche ancora sui conti pubblici. Marco Mobili si concentra, un maxi emendamento da 5,5 miliardi. Se volete sapere tutto quello che c'è sulla finanziaria, leggete pagina 6 del Sole 24 Ore. C'è registro ancora sulla questione delle alluvioni in Veneto. Oggi anche Giancarlo Galan, ogni giorno vi do una chicca, se volete, di persone che sono un po' in controtendenza. Oggi il ministro Galan dice: dai miei concittadini veneti troppi piagnistei. C'è stato un piagnisteo eccessivo, lo fa in un'intervista a Repubblica. I miei concittadini nei giorni dell'alluvione i veneti non sono mai stati lasciati soli dal governo. In tanti stanno spalando. Quelli sono i veneti, i miei concittadini che mi piacciono, non quelli che si mettono a piagnucolare dicendo hanno pagato prima i calcinacci di Pompei. Tra l'altro c'era anche col governatore Zaia, i rapporti tra i due non sono mai stati ai massimi. Chiunque chiami quattro sassi e calcinacci Pompei e i suoi splendidi affreschi che rischiano di andare perduti va respinto e condannato. Così dice Galan in un'intervista a Repubblica. Siamo alle segnalazioni conclusive, anzi all'ultima segnalazione, il titolo della Gazzetta, lasciatemelo dire, da milanista, sorpassone Milan. Questo è il titolo di apertura della Gazzetta dello Sport. Rompipallone di Gene Gnocchi, Valentino Rossi, soddisfatto dopo i primi test alla Ducati. Ho doppiato una gazzella della finanza. E allora ci fermiamo qui, votate il sondaggio, vorreste vedere in TV lo spot pro eutanasia che è stato prodotto e portato avanti dall'associazione Exit International dei Radicali? Questo è il tema che vi chiediamo ora in GR. 24 mattino, l'intervista. Quando sono le 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. L'ospite di oggi è l'onorevole Davide Caparini della Lega. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. È il segretario di presidenza della Commissione Vigilanza RAI. Senta, lei ha fatto una proposta per certi versi shock, visto che la RAI non parla dell'alluvione del Veneto, disdire il canone. Bisogna disdire il canone RAI. E perché? Confermato una proposta, questo è un ulteriore motivo per non pagare canone RAI. Canone sì, perché lei diciamo non lo paga da anni e ne va fiero, lo dice così, si sa che è evasione assolutamente fiscale. Assolutamente no, è obiezione fiscale, obiezione. Ed è consentito dalla norma, la norma dalla possibilità ovviamente. Cioè non è evasione fiscale, lei dice. No, non è evasione fiscale, ma è un atto cosciente di obiezione e di rifiuto di quello che è oggi il finanziamento pubblico del sistema dell'informazione, che è completamente sbilanciato su un solo soggetto, la RAI, escludendo coloro che invece, come per esempio questa mattina voi, state facendo servizio pubblico. Noi abbiamo una visione molto più moderna di quella che è la norma, che è ancora vincolata a un canone che è stato realizzato quando la televisione predispone, ovvero un canone di abbonamento che poi è diventato una tassa di possesso sull'apparecchio televisivo, certo, che un solo soggetto sul mercato può utilizzare. Però diciamo questo piccolo movimento un po' ha preso piede, nel senso già il collega e sindaco di Cittadella suo Bitonci ha detto verso no, disdico il canone e do i soldi alle Lugonati. Un sindaco nel Trevigiano di Riese Pio X, Gianluigi Contarina, ha detto questo. Il presidente della provincia di Treviso, credo Muraro, ha detto diamo i soldi al canone. Tutti della Lega, ma indipendentemente da quale partito lo registro come sì, dato. Sì, ci mancherebbe, ma indipendentemente dal partito io mi metto nei loro panni, cioè nei panni di chi sta vivendo una crisi e un dramma che è ben peggiore di quello del 66 e che accende il televisore e si trova il servizio pubblico che per missione dovrebbe in un momento di crisi fornire un'alta qualità dell'informazione nei confronti della popolazione, delle persone colpite, dovrebbe dare autorevolezza e immediatezza alle informazioni e insomma accende il televisore e non trova altro. Dopo sappiamo benissimo che nei momenti di crisi la radio è uno strumento fondamentale e quando si parla di RAI si parla anche di radio. Senta, ma ieri però sai che il direttore generale della RAI Masi ha proprio parlato di canone, ha detto è la tassa più evasa, bisogna fare qualcosa per recuperare l'evasione del 100 milioni dai canoni speciali di evasione, insomma, canone. Sì, e ha deciso di farlo attraverso i canoni speciali, ovvero quelli non delle famiglie ma quelli degli esercizi pubblici, quindi ristoranti, bar, insomma tutti coloro che E lei che ne pensa di questo piano anti-evasione? Potrebbe bussare già a casa Caparini a dire. Siamo alla preistoria, non si può escutere un dazio in questo modo, perché si tratta purtroppo di uno strumento pensato quando, ribadisco, ancora non esisteva la televisione. Cioè, stiamo però onorevole, fin tanto che c'è, cioè lei è in Parlamento, si batta per abolirlo, ma fin tanto che c'è bisognerebbe pagarlo. Poi le faccio una similitudine che è tanto cara editorialmente alla vostra radio. È una battaglia che la Lega Nord sta portando avanti da anni, come del resto ci sono altre forze politiche, per esempio, che sostengono l'abolizione delle province. Ora, è chiaro che ci sono dei punti di un programma di un partito che sono di quel partito e non della coalizione. Però finché le province ci sono le finanziamo, cioè sarebbe, voi vi battete per questo, però finché c'è il canone uno dovrebbe. qualcuno deve ovviamente sostenere la posizione ed essere coerente anche con obiettore. Quando lei Masi l'ha mai incontrato come per, istituzionalmente come commissario? Ci mancherebbe. E non le dice onorevole Caparini, ma lei non paga il canone? Ma guardi, se per quello anche in passate legislature sono stati oggetto di mozione, interpellanza in Parlamento, insomma la pietra dello scandalo, perché un parlamentare in commissione di vigilanza non pagava il canone RAI. Se non lo faccio io e sollevo il problema, mi scusi, ma chi lo deve fare? L'inerme cittadino che magari si trova agli ispettori della RAI a bussare davanti alla porta. Lei lo fa apposta proprio perché sono in questa posizione? Io lo dico in modo tale che il problema viene sollevato, e credo che molti cittadini, anche coloro che mi votano, ma anche chi non mi vota, riconosce la coerenza e soprattutto condivide la battaglia, che è una battaglia politica. Ovviamente le battaglie politiche le deve fare qualcuno le deve fare, ha la responsabilità per farle. La ringrazio onorevole per essere stato con noi. Davide Caparini, deputato della Lega, membro della commissione di vigilanza RAI, e dice non pagate il canone anche perché la RAI oscura l'alluvione, e lui non lo paga da anni peraltro, e non ne fa mistero. Ci fermiamo, pubblicità e meteo. Nel nostro sondaggio oggi parliamo di questo spot pro eutanasia che sbarca in Italia, che alcune televisioni vorrebbero trasmettere. Giusto trasmettere uno spot pro eutanasia sulle TV? Votate su radio24.it 800 24 00 24 se volete intervenire tra poco. 24 mattino. E allora alle 8:34 minuti arriva in Italia uno spot pro eutanasia. Ci sono alcune TV che sono pronte a dire noi lo manderemo in onda. Questo ha creato un dibattito e una polemica. Secondo voi è giusto mandare in onda uno spot pro eutanasia? Questa è la domanda che vi chiediamo nel nostro sondaggio. La vita è questione di scelte. Io ho scelto di fare l'università studiando ingegneria. Beh, a quei tempi sceglievo di uscire per bere e divertirmi. Ho scelto di sposare Tina e avere due figli splendidi. Ho scelto che macchine guidare. Scelto questa maglietta, scelto questo taglio di capelli. Quello che non ho scelto è di diventare un malato terminale. Non ho scelto di patire la fame per il fatto che mangiare mi fa male come ingoiare la mette da barba. E certamente non ho scelto che la mia famiglia debba vivere questo inferno assieme a me. Ho fatto la mia scelta finale. Ho solo bisogno che il governo mi ascolti. Questo è lo spot che si conclude poi con una scritta: il 67% degli italiani è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia. Ora ne vogliamo parlare con intanto chi l'ha portato in Italia o ha aiutato a portarlo in Italia, Marco Cappato, il segretario dell'associazione Luca Coscioni, radicale. Buongiorno Cappato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Voglio salutare anche il professor Francesco D'Agostino, che è stato presidente del Comitato Nazionale di Bioetica, editorialista anche di Avvenire, spesso lo leggiamo molto volentieri. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Io lo dico chiaramente, a me sembra un po' una provocazione. Si può discutere molto sull'eutanasia o no, sul fatto cosa ne pensino gli italiani, e qui siamo a discutere. Però, Cappato, non è una provocazione, un qualcosa per ottenere... Avvenire ieri è stata molto dura, cioè per via quello che per via politica non si ottiene o che è reato in Italia, allora sbattiamo in faccia questa provocazione e vediamo che effetto fa. Lo spot propone il cambiamento delle regole, e sono tante le campagne che si possono condividere o no nella società italiana che propongono di riformare delle regole. Di fronte a una parola che è un tabù per tutto il ceto politico, tranne i radicali. E non è un tabù per la gente, perché il 67% di favorevoli è citato da un rapporto Eurispes, ma tutti i sondaggi parlano, diciamo, di una metà, per stare bassi, di una metà di cittadini italiani che, perché magari nel loro vissuto hanno conosciuto le sofferenze o addirittura l'eutanasia illegale e clandestina, la scelta alternativa di una eutanasia regolamentata, dove si abbia la libertà, la responsabilità, il diritto di scegliere, è una cosa drammaticamente conosciuta e drammaticamente seria. Il caso Welby, il caso Englaro hanno dimostrato come questi temi, hanno mostrato al paese come questi temi siano seri. Credo che questo spot non sia una provocazione, ovviamente cerca di inclinare il tabù del potere italiano, che per raccattare qualche voto in Vaticano ha bisogno di imporre il silenzio su certi temi. Tra l'altro la parola eutanasia non viene mai pronunciata da questo signore che si presenta, è un signore seduto col pigiama, seduto su un letto, e che dice appunto queste parole. Professor D'Agostino, a lei dà fastidio più l'idea che tutto questo messaggio passi attraverso uno spot televisivo, che vedremo se in Italia qualcuno vorrà trasmettere, tra poco sentiremo anche chi ha manifestato l'intenzione di volerlo trasmettere, quindi le dà fastidio più questo, cioè che tutto sia banalizzato attraverso uno spot, o le dà fastidio in sé il fatto che si possa fare una campagna per l'eutanasia? Guardi, a me gli spot non turbano più di tanto, purché si capisca esattamente qual è la finalità di uno spot. Lo spot, come in generale la pubblicità, serve ad attivare dei comportamenti, ma su temi così estremi come quelli dell'eutanasia non dobbiamo attivare comportamenti, dobbiamo attivare ragionamenti. E non si ragiona guardando una pubblicità, si ragiona attivando un dibattito delle idee, per esempio facendo capire all'opinione pubblica che l'alternativa eutanasia sì, eutanasia no, è troppo grossolana, perché si confonde molto spesso l'eutanasia con il rifiuto delle cure, il rifiuto consapevole e intenzionale delle cure da parte del malato, si confonde l'eutanasia con la rinuncia all'accanimento terapeutico, si confonde eutanasia attiva e eutanasia passiva. La questione è troppo complessa per ridurla in poche battute, peraltro scorrette, perché dallo spot che abbiamo ascoltato il protagonista dice: voglio che il governo mi ascolti, ma il problema non è governativo, è parlamentare, è una legge che dovrebbe legalizzare l'eutanasia, e la legge la fa il Parlamento, non il governo. Anche qui abbiamo un ulteriore contributo alla confusione. Però lei sa che a volte le iniziative legislative possono anche portarle dal governo, cioè non è forse questo il pomo della discordia? Ma come giustamente diceva Cappato, sono tutte le forze parlamentari che nutrono perplessità su questo tema, e quindi abbiamo ancora bisogno di riflessioni e di dibattiti. In altre parole, in passato ci sono stati spot su temi bioetici sicuramente più conturbanti di questo. Vi ricordate all'epoca del dibattito sull'aborto, quando alcuni movimenti antiabortisti radicali esibivano immagini di feti abortiti? Anche quello era uno spot, certo, ovviamente indirizzato a chi voleva abrogare e cancellare la legge sull'aborto. Mm-hmm. E mi ricordo bene che ci fu un sollevamento di scudi, non perché quelle immagini fossero false, erano autentiche. Ma per la banalizzazione. Si voleva sostituire l'emotività al ragionamento. In questo caso sentirsi dire che ingoiare il cibo è come ingoiare delle lamette vuol dire attivare sentimenti di compassione, di tragedia, di disgusto, che ovviamente mettono da parte il ragionare e sostituiscono le emozioni al pensiero. Io su questo, tra l'altro, Cappato, le volevo chiedere, andando un po' contro anche al format, se vuole, della nostra trasmissione, noi facciamo un sondaggio, oggi tra l'altro chiediamo questa domanda, e devo dire che per il momento il 55% che vota su Radio24.it dice sì, è giusto mandarlo in onda, non è che tutto è riducibile a sondaggi, come cito il sondaggio dell'Eurispes. La provocazione che spesso si fa è dice: allora io facessi oggi un sondaggio, voi siete favorevoli alla pena di morte, io sono sicuro che in alcuni casi tutti metterebbero all'80%, 90%, magari il caso di Avetrana, sì, pena di morte. Ma e allora non ci sono dei valori che devono essere considerati al di fuori da quello che è un semplice dire il sondaggio, gli italiani vogliono questo, e chi se ne frega? Cappato. Ma certo, volendo chi se ne frega. Io sono d'accordo con D'Agostino. Il dibattito. Scusate, quanti dibattiti avete sentito voi da Vespa, da Santoro, da Ballarò? Quante volte avete visto le ragioni di chi, in sintonia con una buona maggioranza del paese, propone delle regole che sono quelle, non la pena di morte, sono quelle in Olanda, in Belgio, in Svizzera? Quante volte le avete sentite? Io so che sono state fatte 22 puntate su Cogne. So che la nostra televisione è invasa da escort, veline, eccetera. Allora, gli ultimi ai quali si può rimproverare l'assenza di dibattiti nelle televisioni nazionali su questi temi sono i radicali. Noi, ovviamente, con questo spot cerchiamo di far cadere un tabù del regime politico e del regime televisivo anche, perché se di questi temi non si riesce a discutere, la responsabilità è dei potenti. Uno spot come questo cerca di incrinare un silenzio, una vergogna che viene posta su una parola che è nel vissuto e nel comune sentire dialogo dei cittadini. Poi ha ragione D'Agostino a dire ci sono tante cose diverse, l'interruzione delle terapie, il testamento biologico eccetera, però c'è anche la semplicità del tema di fondo, che è alla fine della vita, che può anche durare adesso molto tempo con le malattie, l'allungamento della vita eccetera, chi sceglie? Qualcuno al posto mio, il Vaticano, il governo, il Parlamento, D'Agostino, Cappato, o scelgo io, ciascuno per sé? E lo spot pone seriamente questo tema, non per dire andate a fare l'eutanasia, che semmai è quello che, come ricorda il professore Veronesi, già si fa, ma dice cambiamo le regole. Non credo che ci sia niente di più proprio e serio di un dibattito democratico che proporre un dibattito sul cambiamento delle regole. Tra l'altro lei ha citato il professor Veronesi, allora io do le informazioni sul traffico, poi professor D'Agostino le voglio far ascoltare un'intervista che io mi sono tenuto, intervistare il professor Veronesi su questo tema, un'intervista che risale al 18 gennaio del 2006, dunque 4 anni fa, ma le vorrò far ascoltare una posizione di pochi secondi del professor Veronesi dopo le informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora ci chiediamo lo spot pro eutanasia, mandarlo in onda oppure no? Intanto voglio salutare, ci ha raggiunto Fabio Ravezzani, che è il direttore responsabile News di Tele Lombardia, Antena 3. Buongiorno Ravezzani. Buongiorno. Grazie di essere con noi, perché so che è stata una serata di campionato e insomma la Tele Lombardia segue fino a tarda sera, immagino sia stata una lunga serata. Qui parliamo d'altro. Io, professor D'Agostino, allora se lei è d'accordo vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori ciò che disse il professor Umberto Veronesi, che è stato più volte citato, gennaio 2006, cosa mi disse sull'eutanasia? Il medico qualche volta piglia lui l'iniziativa e quindi è un'eutanasia clandestina in qualche maniera che è frequente dappertutto, ma ovviamente non possiamo dire né dove né quando né come, non possiamo far correre dei rischi ai nostri colleghi, però sappiamo che esiste un'eutanasia clandestina, nessuno può imporre a una persona di appunto l'eutanasia. Però chi la desidera non disturba nessuno, è un problema che riguarda se stesso e tutt'al più riguarda il rapporto tra se stesso e il medico. Quindi siamo in un settore in cui deve dominare il principio della libertà. Io non la farei perché la è proibita, solo per questo. Se fosse invece consentita, credo che non avrei difficoltà davanti alla persona in condizioni di disperazione di aiutarlo in qualche maniera. È un atto di carità veramente, stando in certe circostanze, e quindi penso che non debba essere negato, è un atto di pietà. È un atto di pietà. In un'intervista a Repubblica aggiunse Veronesi, si fa così, si allontana l'infermiera con una scusa, si aumenta un po' la dose di morfina e nessuno lo confesserà mai, ma già c'è. Professor D'Agostino. Che ci sia o non ci sia l'eutanasia clandestina, posso anche riconoscerlo, non me ne meraviglierei troppo comunque, però da quello che ha detto Veronesi si vede bene che è tanto grande come medico quanto è poco consapevole dei problemi bioetici che farebbe sorgere la legalizzazione dell'eutanasia, perché quando Veronesi insiste nel dire l'eutanasia è un atto di libertà perché la pratichiamo su paziente che la richiede, non percepisce che nella maggior parte, stragrande maggioranza dei casi, il medico si trova di fronte a pazienti che non sono pienamente autonomi, razionali, competenti, capaci di prendere decisioni lucide. Sono pazienti fragili, disperati, impauriti, che si attaccano al medico e sono pronti a sostituire la volontà del medico alla loro propria volontà. Ma se invece fosse una persona lucida, perfettamente consapevole... Possiamo anche immaginare che questi casi ci siano, ma stiamo attenti, la legge non è fatta per pochi, rari casi eccezionali, la legge burocratizza tutto quello che tocca e quando introduciamo la legislazione eutanasica inevitabilmente dilatiamo all'infinito il potere dei medici di sindacare essi stessi quando la vita del malato merita o non merita di essere continuamente supportata. Un'eutanasia legale significa morte burocratizzata. Sì. Ovviamente ci saranno sempre alcuni pochi casi in cui il paziente sfugge alla burocratizzazione. Però dice la legge non deve valere per pochi, ma dare un principio generale. E soprattutto la legge non deve dare al medico un potere inaccettabile in ordine a decisioni di fine vita, perché pensiamoci tutti, quando andiamo dal medico, noi pendiamo dalla bocca del medico e basta che il medico ci suggerisca un'analisi piuttosto che un'altra analisi, se la nostra malattia è seria, corriamo a gambe levate a farci quell'analisi, perché la nostra fiducia verso il medico è totale. È giusto che il medico abbia la nostra fiducia totale, solo a condizione che il medico non uccida mai la vita del paziente. Non ne approfitti. Allora, qui abbiamo Fabio Ravezzani. Eccoci qua, direttore. Perché volete mandarla in onda? È una provocazione o che cosa? No, una scelta doverosa, credo, da parte di un organo di informazione. Devo dire, sentivo il professor D'Agostino prima parlare, per esempio, dell'aborto. Avremmo mandato in onda anche uno spot contro l'aborto. Credo che quando si tratta di problemi così importanti, innanzitutto un organo di informazione abbia il dovere di valutare la profondità dell'argomento da affrontare, se lo ritiene eticamente di grande spessore, non si può tirare indietro comunque, qualunque sia il messaggio. Qui c'è la richiesta attraverso lo spot che il governo si occupi di questo problema. Ecco, il fatto stesso che ci sia una trasmissione come la tua quest'oggi dimostra innanzitutto che si tratta di un argomento di grande spessore, che se ne deve parlare. Credo che non se ne debba parlare solo perché c'è una persona o una famiglia disperata, come è avvenuto negli ultimi anni, perché diciamo la verità, sì, è vero, se non c'è un caso sì, di questo genere non se ne parla. Questo è vero, questo è vero. Ecco, quindi noi abbiamo fatto una scelta di disponibilità totale ad ospitare questo tipo di argomento, a costruire, per quanto riguarda noi, come stai facendo tu, dei dibattiti seri, approfonditi, con diverse opinioni, ma non aspettare che ci sia sempre un caso estremo per affrontare questo. Però l'accusa del professor Agostino è: si sostituisce a un dibattito serio, che in questo caso spero stiamo facendo, con uno spot, una cosa che è impattante emozionalmente, ma poi butta lì una cosa così seria, buttata lì in 40 secondi. Ma guarda, in 40 secondi si possono parlare di problemi estremamente seri e sollevarli. Noi per esempio abbiamo ospitato ancora di recente uno spot sul dramma dei bambini africani che hanno bisogno di cure, con delle immagini scioccanti veramente. E quando me l'hanno proposto mi hanno detto: guarda che è molto forte. Ho detto: non mi importa, perché solleva un problema di grandissima attualità che tutti dobbiamo ricordare sempre che esiste. Ecco, lo stesso vale per questo tipo di problematiche. Non vedo una differenza in nessun caso di questi generi. Ci sono degli spot in onda veramente imbarazzanti in tutte le televisioni, diciamo la verità. Credo che questo non rientri nella categoria, è la ragione per cui noi lo ospitiamo. Ma ti ripeto, l'avremmo fatto anche per delle posizioni opposte. L'importante è che si sollevi il problema e che se ne torni a parlare. Dopodiché, avete notizie sul fatto, lo potrete trasmettere oppure no? Perché in Australia, per esempio, è stato vietato. L'autorità garante per le comunicazioni pare che dica: noi non possiamo intervenire prima, semmai sanzioniamo dopo se ci sono dei problemi per cui dobbiamo sanzionare. Cioè, lo trasmetterete oppure no? Questa è la domanda, ce la farete? Sai cosa vuol dire questo tipo di atteggiamento dell'autorità garante? Che qualora ci fosse legittimamente un cittadino della Lombardia che vede lo spot e ci denuncia all'autorità garante, l'autorità garante può arrivare fino a togliere tutti i contributi che vengono versati alle televisioni locali, come a tutti i principali organi di informazione. Cioè parliamo di centinaia di migliaia di euro. Noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo, magari questa prima informale dichiarazione dell'autorità garante, che l'autorità garante ci dia un ok di massima, perché arrivare dopo di fronte a uno spot che voi avete sentito e che ci sembra assolutamente, pur nella sua forza, legittimo, serio e fatto in maniera molto attenta, arrivare dopo è un po' troppo facile. Quindi il nostro ufficio legale sta parlando con l'autorità garante per dire: no, dici prima se per te non c'è problema, perché dirlo dopo rischia di diventare troppo tardi per noi. Certo. Professor D'Agostino, dovesse vedere questo spot in TV le dà fastidio, perché Avvenire ieri ha detto: l'autorità garante intervenga e dica no. Secondo lei proprio non è da mandare in onda, è una cosa che non vorrebbe mai vedere passare in TV? Guardi, intanto lo dovrei vedere, in televisione e non semplicemente sentirne l'audio. Però sull'internet lo trova già, se vuole. Bene, questa non è, mi ha dato un'utile informazione. In secondo luogo, naturalmente, rispettiamo le competenze di tutti, la competenza delle autorità garante va rispettata e dobbiamo cercare di evitare di tirare per la giacchetta, come oramai si fa da tutte le parti, politici, ministri o authority indipendenti. Però la sostanza del problema qual è? Che in questo caso attualmente questo spot entra in una in un contesto che non è privo di regolamentazione giuridica, perché ricordiamoci che il nostro ordinamento penale proibisce l'eutanasia, proibisce anche l'omicidio del consenziente. Sì. Allora, se siamo tutti attaccati alla legalità, e mi meraviglio che i radicali, che ricordano sempre quanto è importante il valore della legalità, non si rendano conto che la legalità significa in primo luogo rispetto del diritto vigente, non perché il diritto vigente non possa essere mutato, non perché non si possano fare battaglie per cambiare la legge, ma perché finché c'è quello, dice. Ma perché queste battaglie non vanno fatte mirando alla pancia dei cittadini, mi devo fermare qui, ringraziando davvero tutti, Antonella Migliaccio in redazione e Peter Bescapè in regia. Ci torniamo su questo tema, ve lo prometto. Oscar Giannino, a domani.